Sa fo moja sa fo. Zar su lepši dušo, sunduli od ruže, zar je tebi draži? Gavran od slavuja, i biseri lažni, ljepši od dragulja. I biseri lažni, ljepši od dragulja. E abbiamo un po' sistemato la situazione nel frattempo in questo primo pezzo, quindi cominciamo. Buonasera, benissimo. Benvenuti a Etno Chic e parliamo della Sevda. E questo chi è che suonava? Allora suonava, ripeto il nome, Mohamed Mezanovic Hamic, Sino Santi Safo. Vi traduco solamente l'ultimo verso: Zarje tebi draži, gavrano slavuja, i biseri lažni, ljepši od draguglja. In poche parole, lui chiede a lei, perché canzone d'amore si tratta, e dopo ne parleremo ancora, cara, a te piacciono di più i corvi o gli usignoli, oppure le perle che mentono, insomma gli ori che mentono, oppure le pietrine preziose, quelle vere, insomma, no? Perché lui era abitudine, soprattutto sotto i turchi, visto che le donne non potevano uscire, insomma avevano i loro cortili dove stare, no? Però il venerdì sera potevano affacciarsi alle finestre, no? E ovviamente passavano i maschi e complicità di sguardi, chi voleva proporsi aveva l'occasione giusta. Aveva l'occasione, c'era una cosa da fare, ossia lasciare un fiore sul davanzale, e il giorno dopo, se la donna lo portava al seno, voleva dire, insomma, che tutta la situazione andava bene, insomma. Sì, che poi qui ci sono tutti i significati così di simbolismo, di magia. Certo, di... certo. Poi nella Sevda, soprattutto nelle Sevda Link, in queste musiche qua, i fiori proprio dominano, come regno simbolico. E queste Sevda, come mai Sevda? Siamo in Bosnia, giusto? Un repertorio delle città, giusto? Sì, un repertorio sono delle città, canzoni però vecchie, non canzoni recenti. Come sappiamo, sì. la Bosnia è divisa fondamentalmente, divisa purtroppo politicamente, ed è quella la sua maledizione, però in realtà ci sono quattro etnie principali, sì, anche diverse, perché un punto sono d'incontro: i musulmani, gli ortodossi e i cattolici. I cattolici e anche poi ci sono gli i ebrei, sì. Insomma, però diciamo che i tre principali sono loro, no? E Sevda deriva dal turco, almeno poi gli storici sono più o meno d'accordo, questo non ci interessa, però fondamentalmente si può associare al termine saudagi, e in più alcuni dicono che vuol dire semplicemente amore, oppure anche si può associare anche alla melanconia o la bile nera, quel sentimento che ci prende e che non va via e che non sappiamo spiegare, che però comprende, insomma, tutte le cose importanti che ci possono capitare riguardo all'amore, oppure una disgrazia, oppure una cosa felice, qualsiasi cosa, insomma. La Sevda, certo, riesce attraverso i testi e le canzoni, anche, diciamo, perché con gli austro-ungarici, diciamo, questo avete sentito, questa esecuzione con il saz e la voce, diciamo che da quando gli austro-ungarici sono arrivati tutto diventato un po' più quadrato, e adesso vi faccio ascoltare un altro pezzo di Himzo Polovina, che è un altro grande interprete della Sevda, rinomato veramente. Questo pezzo sì, si intitola... è un autore, sì, sì, un cantante del Novecento, insomma, già per sì, sì, sì, vi faccio ascoltare Cadi Appoggio Nabben Bascio, che per alcuni diciamo è l'inno non ufficiale di Sarajevo. Benbascia infatti è un quartiere di Sarajevo che si trova proprio vicino al fiume, adesso ve lo metto, e parla più o meno della stessa cosa della canzone che abbiamo ascoltato prima. Sì, però, quindi molto spesso sono canzoni con testi amorosi. Amorosi, poi spieghiamo meglio. Intanto ci ascoltiamo questo per capire la differenza dopo più o meno 40 certo. anni. questa era Imso Polovina, giusto? Imso Polovina, neuropsichiatra di professione, ma avete sentito che voce stupenda. Molto... Sì, è stato uno dei cantanti più popolari nel periodo della... Sì, assieme ad altri, ma lui in particolare, soprattutto per il timbro vocale, è proprio un punto di riferimento. Anche qui, dicevo, si tratta della stessa, più o meno, della stessa situazione di prima. Lui che passa, in questo caso, con un agnello davanti a questi dvorist, a questi cortili dove ci sono le donne, dietro alla finestra c'è la sua amata che gli dice vieni questa sera, lui però ritarda un po', va il giorno dopo e l'amata se la son presa. Insomma, bisognava essere anche un po' veloci, perché insomma... Beh, poi questo ci sta anche insomma, nel tema della canzone che ha lo spunto drammatico, no? Esatto, fosse... volevo collegarmi appunto anche a più o meno all'origine della Sevda, perché a parte i poemi epici che sono lunghissimi e voi potete immaginare se conoscete un po' anche altre culture che anche diciamo stiamo un po' vicini nel tempo, gli stornelli romani ad esempio possono durare anche, oppure l'ottava rima fiorentina può durare anche delle ore, no? Le ballate che si sono scritte, canti narrativi, certo. Esatto, canti narrativi, le ballate secondo la storia hanno questi risvolti drammatici, invece le romanze hanno invece il lieto fine, insomma. Sì, però le cose che caratterizzano questi brani. C'è un grande fisarmonicista che adesso ascolteremo che si chiama Omer Pobrich, che è l'orchestratore di Zaim Imamovic, che è un altro interprete di Save the Link, che diceva fondamentalmente non capisco, ma in realtà capiva, perché una musica così al primo ascolto potrà sembrare così triste, ma in realtà è malinconica o melanconica, come vogliamo dire, è un sentimento molto più profondo, possa attrarre così tanto le persone. Però se voi andate a vedere un po' la storia della Bosnia, forse purtroppo capite anche il motivo. Sì, certo, di perché... questo timbro un po' scuro, per così dire, che in realtà non lo è, perché se andiamo a ascoltare adesso... Sì, comunque sì, è comunque sicuramente anche un'influenza della musica orientale, con queste cose un po'... Certo, che in certo. tutta la parte balcanica abbiamo questo fatto. Certo, musica orientale, musica zingara. Adesso vi faccio ascoltare Ubo Sans con Malom Selo, che mm-hmm. significa nel piccolo paese della Bosnia. Questo è un po' fuori, anche un po' moderno, diciamo, come testo, perché parla di un amore lesbico tra due ragazze, tra due donne, però impossibile in un paesino della Bosnia, che purtroppo, ancora una volta, va a finire non tanto bene, perché le due ragazze non avendo la possibilità di amarsi, è loro vietato amarsi, purtroppo si buttano nel fiume lasciando una lettera alla cara mamma che la legge che poi è il tema dei due fiori di cappella, classico degli amanti divisi come Romeo e Giulietta. Bravissimo. Che risale ancora al Medioevo. Esattamente, insomma. Qui sentirete i fiori che crescono sulle tombe, che poi anche lì ci sarebbe. Esattamente, cosa, qui ci sono tutti i riferimenti simbolici profondissimi. E sentirete questa fisarmonica un po' zingara all'inizio del grandissimo Omer Pobrich, che ha anche istituito l'istituto della Sevda a Sarajevo. Buon ascolto. Bene. Non voglio parlare troppo. Lijepa Shaza i Hanifa. Ah, ljudi, da li znate kako gorko zna da boli kad se bolno razum gubi, a srce ne smije da voli. Jednog dana kraj vijeke, jedna drugu zagrliše, na obali osta pismo i u vodu skočiše. Sad proklinju stare majke, svoje riječi pune plaća, jer sad vide da je ljubav, ljubav od života jača. Ah, ljudi, da li znate kako gorko zna da boli kad se bolno razum gubi, a srce ne smije da quindi questa specie di canto narrativo, insomma, un'altra influenza, insomma, poi sentiamo tanti strumenti diversi, no? Sì, nel senso, sì, strumenti più moderni. Qui c'è già una orchestrazione, cosa che non dico che non ci fosse stata prima, però diciamo che è diventata ovviamente necessaria per innanzitutto inquadrare la canzone, cioè dare, diciamo, un limite al testo, no? E in più vi leggo solo le prime parole che sono state dette quando è stata aperta nel 10 aprile del 1945 Radio Sarajevo. Questa è Radio Sarajevo, morte al fascismo, libertà al popolo. Molto semplice. Che quello era lo slogan poi della resistenza. Esatto, resistenza. Perché ho parlato, perché sto parlando di Radio Sarajevo? Perché è proprio Radio Sarajevo che ha permesso a questi cantanti e altri che ascolteremo tra poco, purtroppo ovviamente non tutti, di farsi sentire, insomma, far ascoltare le Save the Link. Sì, perché poi è interessante che anche come mercato discografico si sicuramente anche poi tra tutti i paesi dell'est, la Jugoslavia è quello che ha come dire, una grande diversità di cose. Assolutamente. C'era una produzione sterminata che andava praticamente su tutti i generi musicali. Assolutamente. E quindi anche le radio hanno avuto un'importanza particolare. Notevole. Poi la Jugoton, che adesso è la Croatia Records, ha un archivio sterminato di qualsiasi cosa. Adesso veramente sono andato a vedere cosa c'hanno in archivio tra il rock, tra l'altro anche le Divlje Jagode, che sarebbero i frutti di bosco, hanno fatto una versione, adesso che parliamo, andiamo un po' a braccio, le Divlje, un gruppo rock che ha fatto versione di Moj Gilbert, che è un'altra Save the Link, adesso ve la faccio ascoltare. No, ma infatti ci sono... Scusate che digito, Moj Gilbert... Sì, perché chiaramente questo è un po' come un vaso di Pandora, insomma, nel senso che comunque come stare solo su una scaletta, ci sono veramente tanti ascolti. Sì, tanti ascolti, poi quello che mi viene in mente, come in questo caso, questo è un gruppo rock, alcuni hanno detto i Motley Crue della Croazia, buon ascolto. Questi erano i Divle e Jagode, giusto? Gruppo che riprende appunto la Sedda Link in chiave rock. Mi è venuto in mente perché insomma abbiamo parlato di radio, abbiamo parlato di Radio Sarajevo, sì, esatto, la produzione discografica, e insomma capire anche come la musica cambia nel tempo e si adatta ovviamente alle nuove tecnologie, insomma, no? Sì, comunque se è interessante che loro si sente che utilizzano comunque quel linguaggio, costruiscono su quel linguaggio, cioè non... Sì, sì, certo, questo è una che hanno fatto, insomma, poi loro hanno la loro direzione chiaro, artistica. Chiaro. Ora non abbiamo ancora sentito, per esempio, un duo, no? Sempre di Save the Link. Molti autori di Save the Link, uno di questi autori diceva che ogni famiglia, soprattutto in città, Sarajevo, ha la sua propria Save the Link personale, no? E infatti molti anche ottimi cantanti e ottimi musicisti sono poco conosciuti, come questi due, no? Che in realtà lì sono conosciuti molto, però diciamo che all'estero, se uno dovesse ascoltare, se dovesse digitare Save the Link, eccetera, eccetera, non trova subito questi due, che sono Hamid Rajipovic Beško, che è il cantante, e Novica Negovanovic, che è un formidabile fisarmonicista, che qui ha già, sembra, la tenera età di 80 anni, ma sentite ragazzi come suona. Thank you. qui ho notato due cose. Intanto che il fisarmonicista ha appunto questo stile molto melismatico che appunto è molto comune al sud della Romania, Oltenia, Serbia e Bulgaria. Ma vedi che Vladimiro c'ha l'orecchio. E poi c'è pure il suono, ve lo dico per voi che cari radioascoltatori, suona proprio una fisarmonica a bottoni, insomma, che è un po' la fisarmonica regina. Insomma. Bravo Vlad, infatti il fisarmonicista è di origine serba. Hai capito? E infatti si sente proprio il suono diverso. Sì, le cadenze sono particolari. Però come certe cose musicali. Ma per provare appunto il loro virtuosismo, gli strumentisti come i violinisti o i fisarmonicisti, diciamo che sono i più, oppure i suonatori di saz, come abbiamo ascoltato nel primo pezzo, tendono ovviamente a seguire anche i melismi della voce. A proposito di voce melismatica, non esagerata ma molto nobile, io voglio farvi ancora ascoltare il grande maestro Imso Polovina con un pezzo molto noto che si chiama Gonzie Rujo. Buon ascolto. Gonzie Rujo, u zelenom sadu, lijepo li mirišeš u vagu, ljepše nego sa bosija krani, rosom pokapani, ljepše nego sa bosija krani, izumbuli rosom pokapani. questo era di nuovo Enzo Polovina. Gondi e Rugio. Se voi digitate questo nome vi vengono molti pezzi suoi, è una voce veramente magica, che anche se magari non è nelle vostre corde, questo tipo di musica in qualche modo vi rimane impressa. Rimarrà impressa, assolutamente, esatto. Sono quelle musiche che non sono una meteora. Non sono una meteora come quelle di adesso, ma sono eterne. E, bene, visto che ormai siamo agli sgoccioli per quanto riguarda la trasmissione, io chiuderei con il suono con cui abbiamo iniziato, ossia voce e saz. Vladimiro ci ricorda anche che questa sì è solo una prima puntata dedicata alla Sevda, e ne faremo un'altra anche con una sorpresa, quindi insomma con una piccola momento dal vivo di interpretazione in questo studio, e diciamo continuate a seguirci perché tutto questo verrà tra non molto a giugno, e quindi vi lasciamo con quest'ultimo ascolto e vi diamo appuntamento qui in radio tra una settimana in diretta, e poi con Stefano e la Sevda a giugno. E buona serata, grazie Stefano. Grazie a voi. Ed eccoci. Buonasera. Buona serata. Imao sam 10 žena, sve i se nađe smrt. Primio je dragi Allah zeleni vrt. Primio i dragi Allah u zeleni vrt. Prva mi je bila dobra kao bijel dan, a druga se objesila gredi na tavan. A druga se objesila gredi na tavan. Treća mi je, dragi moji, kjela crni luk, a četvrtu na Trebević razerao vuk. A četvrtu na Trebević razerao vuk. Petu mi je, dragi moji, prevario loz, a šestu mi na Iliđi pregazio voz. A šestu mi na Iliđi pregazio voz. Sedmu mi je, dragi moji, odnio vrak, a osmu mi pod jezikom udario šlag. A osmu mi pod jezikom udario šlag. Deveta je svađalica, svađa svaki dan, a s desetom šta je bilo, ja ne znam sam. A desetom šta je bio, ja ne znam sam. žene ljube mene. Žene, žene, žene, one vole mene. Žene, žene, žene, one ljube mene. Žene, žene, žene.